E bentornati anche questa settimana ad una nuova puntata di Rock Legends. Microfono come sempre il vostro Jean-Luc. Cura turno di interviste dal Friulano. Ci è venuto a trovare una formazione che ci presenterà il suo disco. A voi ragazzi le presentazioni. Ciao, noi siamo i Dial Maze da Monfalcone, provincia di Gorizia. Io sono Francesco, voce. Io sono Randy, il batteria. E salutiamo la Mara, bassista, e Sandro, il chitarrista, che sono rimasti a casa per problemi di lavoro. C'è qualcuno ancora che lavora in Italia? E con i Dial Maze, una prima parte dedicata alle origini dell'hard rock inglese e americano degli anni 70, con alcune formazioni più o meno note. La prima canzone era degli Lucifer's Friend, band anglo-tedesca, in cui si erigeva un maestoso John Lawton, poi passato nei tardi 70s negli Uriah Heep. Non si figurava neanche in una band così ricca di idee, che ne dite? Sì, Lucifer's Friend li conosco, diciamo, abbastanza. Hanno comunque non so che di Uriah Heep, infatti nel sound si sentiva abbastanza, quindi non mi stupisco che John Lawton sia poi passato proprio negli Uriah Heep. La storia dei Dial Maze inizia nel 2007 ed arriva ad oggi con la release del vostro album. Come vi siete formati e il significato del vostro nome? Sì, niente, diciamo che nel 2007 è stato un anno di svolta per tutti quanti noi, per noi quattro, insomma, che siamo formiamo il gruppo. E diciamo che le nostre band precedenti erano arrivate a un punto, a un binario morto, e poi metti che io, Randy e Alessandro ci conosciamo già da tanti anni, addirittura io e Randy eravamo a scuola assieme. E anche se devo dire la verità, io e Amara abbiamo formato il gruppo, poi è arrivato Sandro, per ultimo Randy, comunque in un momento proprio giusto della... momento topico, ecco. Esattamente. E niente, il nome Dial Maze deriva proprio dai nostri nomi di Randy, Alessandro, ma Mara c'è, Cesco, Francesco, insomma. Ok, proseguiamo con i Blue Oyster Cult, la band di Donald Roser ed Eric Bloom, famosa per la frontline a tre chitarre, dal disco Secret Churches del 1973 con l'incalzante Cagey Cratins. Man, ooh, KG, what you got there, honey? band attiva ancora oggi, anche se sottovalutata dai fans di hard rock. Cosa ne pensate? A me non piacciono. Aia. Male, male. No, no, io sì, parlo un po' di ignorante in materia, perché anch'io non è che conosco tutti questi gruppi qua. Però solamente a pensare che negli anni 70 suonavano in quella maniera lì è veramente pauroso, è da brivido. Anche perché gruppi così, adesso come adesso, difficilmente li troviamo. Sì, sì, non esistono, ovviamente. Possono piacere o meno, questi gruppi comunque avevano molte cose da dire rispetto a questi pseudo gruppi che tralasciamo, va. E suonavano con niente anche, perché insomma amplificatori, batterie, sì. Genuini, ecco. Esatto. Vostre esibizioni, come sono andate, quali reazioni del pubblico al vostro trascinante set? Dipende, perché dalle parti nostre o in giro? Sì, è vero, perché... questo è bravo Randy, hai detto giusto, dipende. Perché dalle parti nostre suonare fuori è... praticamente abbiamo sto pubblico che gli manca la pistola. Bravi, sì, e dico, bravi ma basta. Ma il comune mezzo gaudio in questo sì, senso sì. Oh. Francesco, delle soddisfazioni abbiamo avute comunque. Sì, diciamo dai. Che le soddisfazioni ci sono state, su questo non ci sono dubbi. Sì, forse io sono un po'. Sono quello che non è mai contento, ecco, diciamo. Sono sempre quello che vuole. Vorrebbe di più. Sì, sì, ecco, voglio quello che vuole di più. Beh, però diciamo che in linea di massima, dai, va bene. Concludiamo questa prima parte con gli Uriah Heep, che nel 1972 incidono il loro disco più noto, intitolato Demons and Wizards, che contiene molti dei loro cavalli di battaglia. Da questo album ho scelto Traveler in Time. A fra poco con la seconda parte.